Ore 21, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. 9 novembre del 2022, inizia dunque prove tecniche di trasmissione sino alle 22.30. Quando arriverà 25 o'clock. Un rapido giro di saluti, Maya in Sardegna al pari di Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Anna qui a Roma, Tabula Rasa, Teste Carlo from Boston, Cecilia Miradoli del progetto Pindar. Negli Stati Uniti andiamo a salutare Desde Carlo del Violet Knox. Un saluto a Valerio Michetti della Grazia Obliqua che questa sera suonerà qui a Roma insieme a Marcio Gronge. Vi salutiamo entrambi. Marco Milanesio di Disordine e altri progetti sempre di area ambient e elettronica industrial. Per esempio 909 che presto sentiremo qui. E poi il medico della peste, Laura Spirit Crusher, Marolino Stancati, Flavio Derbecante di Noise Cluster e DB Pit. Un saluto anche a Giuseppe Verticchio di NIM. E noi andiamo ad iniziare con quest'artista che abbiamo cominciato a conoscere la scorsa settimana. Artista toscana, attualmente residente a Berlino. Artista che nasce dagli ambienti jazz, ma che riesce anche ad esprimersi artisticamente nel campo dell'ambient IDM attraverso questo Perpetual Possibility. Lei è Camilla Battaglia. E quindi ci andremo ad ascoltare tre brevi estratti da questo album che si può trovare anche sul suo profilo Bandcamp. E allora, Exploration e Condition of Complete Simplicity, Costing Not Less Than Everything e Let Me Take You. We shall not cease from exploration and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. We shall not cease from exploration. Ancora Camilla Battaglia da questo Perpetual Possibility. Eccolo qua, Being Between Two Lives. Attachment to self and to things and to persons. Detachment from self and from things and from persons. Attachment to self and to things and to persons. Detachment from self and from things and from persons. Persons. Attachment to and to things and to persons. Detachment from self and from things and from persons. Attachment to self and to things and to persons. Detachment from self and from things and from persons. And indifference between them. Being between two lives. Being between two lives. And indifference between them. Being between two lives. Being between two lives. Being between two lives. Between two lives. Two lives. Ritengo una delle voci più interessanti del panorama italiano questa novità appartenente a Camilla Battaglia, si chiama Perpetual Possibility. Suono destrutturato e ricostruito, atmosfera ambient ma anche un sottobosco di inflessioni jazz per veri e propri flussi emozionali che arricchiscono questa opera lunga. Saluto Eugen Vintras di Gin da Venezia, Enrico Ponzoni di Sokonshi Butsu Project, Giulia qui a Roma, Serena anche qui a Roma e il buon Nicola Locci, lo risalutiamo. Buonasera anche a Like Wake, storico progetto ambient, anche lui qui dalla capitale. E proprio nella capitale arriviamo, Gianluca Becuzzi ha stampato un interessantissimo doppio album dal nome Axis Mundi, pervaso di, diciamo, religiosità, ma non nel senso ufficiale, ma come ricerca, diciamo, di un essere più intimista, sfruttando però suggestioni che provengono per esempio dai Balcani o dal profondo est. Da questo lavoro Axis Mundi, dal primo CD, ci andiamo a godere For a God with No Name. Thank you. Il ritorno di Gianluca Becuzzi in questo 2022 attraverso questo doppio CD Axis Mundi, pervaso di fascino misterico e afflato religioso, interamente suonato da Gianluca Becuzzi per l'appunto, e che esce per questa interessante e storica etichetta dal nome Standa. Gianluca Becuzzi è presente anche in questa antologia di Raffaele Pezzella e quindi attraverso la Nesplit Sounds Group Production, ossia Anthology of Post-Industrial and Experimental Music from Italy, Italian Music Survey. Non ci sentiremo Becuzzi, lo faremo più in là, ma ci andremo ad ascoltare un altro genio italico, Mario Lino Stancati con Urta Dentro, e poi un progetto proprio proveniente dalla Sardegna dal nome Hermetic Brotherhood of Luxor con Cuius Vulturis Hoc Erit Cadaver. compilation che naturalmente contiene forse il meglio dell'avanguardia italica, compresi Mario Lino Stancati, da queste parti abbastanza noto, e invece in un progetto, diciamo, praticamente una new entry qui a prove tecniche, ossia Hermetic Brotherhood of Luxor, con Laura Demme e Mirko Santoru, provenienti dalla Sardegna, che per anni hanno anche gestito la Transponsonic, una interessantissima label con un vasto materiale che cominceremo a spulciare e che manderemo qui molto presto. Sardegna piena veramente di talenti. Terra che peraltro esprime molto mistero, trasportato spesso anche in musica. Ancora Italia, ancora talenti italiani. Lui è Nim, Giuseppe Verticchio, lui invece è un artista proprio qui di Roma. Anche lui è una sterminata produzione che pian pianino magari cercheremo di reperire e proporre. Beyond the Crown Era, ristampa di un lavoro del 2012, allargato anche a brani estratti da varie compilation. E quindi The Reversed Nightmare e Sounds from Alasia. من المقاولين الأغنياء المليانين في المجازفة. Thank you. E finiva così dunque Beyond the Crown Era per Nim di Giuseppe Verticchio, un vero e proprio caleidoscopio di stratagemmi industrial sperimentali e con una scia decisamente etnica che andava a concludere questa decima ed ultima traccia. Per chi volesse, c'è il ricchissimo profilo Bandcamp di questo artista che consiglio veramente di andare a visitare, perché contiene una impressionante mole di lavori anche attraverso vari nomi e progetti alternativi. Tanti talenti italiani, ce n'è un altro all'ascolto, Filippo Panichi, che vado a salutare. Anche lui presto lo riascolteremo qui a Prove Tecniche di trasmissione. Sono le 21.45, quindi metà programma è andato via. E andiamo via anche dall'Italia, andiamo in Gran Bretagna. Arriviamo all'inizio degli anni 80 con un album dal nome Opex, e chi fece Opex nel 1983 fu Muslin' Ghost di Brian Jones, un'altra, come si suol dire, base del mestiere. Artista purtroppo scomparso in maniera prematura a 38 anni, se non erro, nel 1999. E da Opex ci ascolteremo Milena Jesenska e un'altra traccia dal nome Sist. We'll be right back. ليه رجع له الكريستيانو مشى مع البيع والشراء وقالوا تصغر ناس قدام التبس كبير تاني تخلطي ما سالش Questo era OPX, Muslim Ghost, prima cassetta del 1983, ristampata in vinile nel 2016. Muslim Ghost che ancora doveva prendere la decisiva direzione e interesse verso selezioni e sonorità arabeggianti. Sappiamo il suo interesse per la Palestina, soprattutto in tutti gli aspetti della Palestina, compresi quelli della sofferenza di quella terra. Ringrazio Filippo Panichi, lo abbraccio, e un grosso abbraccio anche a Antonio Zoviet del progetto Omicidio, anche lui proveniente dalla Toscana. E di Brian Jones è uscito un importantissimo lavoro postumo. Operazione che, quando è postuma e soprattutto quando è troppa, in tutti gli artisti mi lascia un attimino di perplessità, ma nel caso di Muslingos sicuramente non è che si sia arricchito, devo dire, qualcuno, già che rimaniamo sempre nell'ambito della nicchia. Ricordo Brian Jones, scomparso nel 1999, ho avuto la fortuna di vederlo all'allora CSOA Brancaleone qui a Roma. Andiamo avanti, torniamo in Italia, andiamo, sconfiniamo nel noise. Loro sono Umanima di Valerio Michetti, Cornelio Basilisco, Alberto Cripper. Un nuovo lavoro interamente strumentale dal nome No Redemption. Ci ascoltiamo Senza il tuo credo e L'ultimo rituale.